Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Tutti voi, cari ascoltatori, un saluto in questa giornata tanto significativa, in quanto si pone proprio all'apertura della grande Settimana Santa che ci porta a contemplare il mistero del Signore, il mistero della passione, morte e risurrezione di Gesù. Nella liturgia ambrosiana questa è chiamata la settimana autentica, perché ci porta nel cuore dell'autenticità della nostra fede e anche del nostro cammino di discepoli. E in questa cornice noi collochiamo anche la nostra conversazione mensile. Come sapete, il nostro appuntamento si intitola La tua parola mi fa vivere, perché l'obiettivo di questi nostri scambi, di questa nostra conversazione, è proprio quella di cogliere la forza viva della parola, una parola che non vuole parlare solo alla nostra testa aggiungendo nozioni su nozioni, ma vuole parlare al nostro cuore e plasmarlo, perché è ripiena di quella vita che in questa settimana noi contempleremo in modo particolare. In questo nostro appuntamento mensile stiamo percorrendo la lettura continua degli Atti degli Apostoli e siamo arrivati ad un capitolo che ben si colloca nella cornice del tempo liturgico che stiamo vivendo. È il capitolo 27 degli Atti degli Apostoli, dove Paolo vive una delle tante Pasque del suo ministero. Come sapete, Pasqua significa passaggio. Ecco, nel capitolo 27 Paolo vive uno dei passaggi più travagliati della sua esistenza, anche perché è attraversato, caratterizzato da un naufragio, ed è il passaggio dalla prigionia di Cesarea alla prigionia di Roma. E nel mezzo c'è proprio questa attraversata del grande mare per arrivare nel capitolo 28 alla Caput Mundi. Prima però di leggere l'intero capitolo, l'obiettivo di questa nostra conversazione è leggere l'intero capitolo 27, chiediamo insieme allo Spirito Santo di illuminare questo tempo che condivideremo insieme, proprio perché la parola possa parlare i nostri cuori. E chiediamo anche l'intercessione di colei, Maria, che è stata la donna che ha aiutato la prima comunità cristiana a vivere la grande traversata di una fede in un grande maestro alla fede nel Figlio di Dio, con tutto il coraggio, i cambiamenti, le sfide che questo richiedeva. Chiedo a quanti di voi sono nella possibilità di farlo, di prendere in mano un'edizione del Nuovo Testamento o della Bibbia intera, in modo che possiate seguire passo passo il testo che leggeremo. Come vi dicevo, siamo al capitolo 27 degli Atti degli Apostoli, capitolo 27 degli Atti degli Apostoli. Ora, il racconto del viaggio verso Roma di Paolo, come abbiamo visto nelle conversazioni precedenti, Paolo è stato esposto più volte al processo. Lungo il processo non è mai emersa nessuna accusa grave nei suoi confronti, però visto che stavano facendo di tutto per metterlo a morte, un po' come succede proprio per Gesù nell'imminenza della Pasqua, tutti cercano un motivo per metterlo a morte, Paolo abbiamo visto che si è appellato all'imperatore. Ecco allora l'inizio di questo grande viaggio, anche se il viaggio è accompagnato da una lettera in cui si è notata la difficoltà del procuratore di identificare un motivo per cui affidare Paolo al giudizio dell'imperatore, al giudizio di Cesare. Bene, il capitolo 27 è proprio quello che narra il percorso. È un capitolo strutturato molto bene, nel senso che l'autore racconta le singole tappe del viaggio, sostando in modo particolare sul naufragio. E sembra che il naufragio sia costellato da una serie di segni, io direi quasi 7 segni particolari, che diventano anche elementi simbolici di cosa significa vivere il passaggio, di che cosa significa vivere la Pasqua fino in fondo. E se avremo tempo al termine della nostra conversazione, cercheremo anche di fare una sorta di associazione tra questo capitolo e il brano che la liturgia del Lunedì Santo ci propone, cioè la liturgia di oggi ci propone, cioè quello dell'unzione di Betania. Bene, entriamo quindi subito all'interno del racconto, ripercorrendo le singole tappe del percorso di Paolo per poi sostare sul naufragio. La prima tappa di Paolo, che si imbarca da Cesarea, è la tappa che lo porta da Cesarea a Sidone e che è racchiusa nei primi 3 versetti. Leggiamo il testo. Quando fu deciso che ci imbarcassimo per l'Italia, consegnarono Paolo, insieme ad alcuni altri prigionieri, a un centurione di nome Giulio, della corte Augusta. Salimmo su una nave della città di Adramitto che stava per partire verso i porti della provincia d'Asia e salpammo avendo con noi Aristarco, un macedone di Tessalonica. Il giorno dopo facemmo scalo a Sidone e Giulio, trattando Paolo con benevolenza, gli permise di recarsi dagli amici e di riceverne le cure. Allora, in questi primi 3 versetti Paolo percorre i primi 120 chilometri che caratterizzeranno la sua navigazione. Notiamo che ci sono delle particolari attenzioni nei suoi confronti, cioè questo centurione pagano gli permette di avere con sé un discepolo, Aristarco. Nella lettera ai Colossesi viene detto che Aristarco è un suo compagno di prigionia. In questo caso Aristarco è un uomo libero, però gli viene concesso di accompagnare Paolo. Non solo, ma nei confronti di Paolo c'è un'altra attenzione, cioè quella di rendergli possibile, durante la fase di carico-scarico della nave, di visitare una comunità, la comunità di Sidone. Sono appena tornato da un pellegrinaggio in Libano, dove abbiamo visitato, tra le diverse città legate alla Sacra Scrittura, Tiro e Sidone. Ora, in entrambe, ancora oggi, ci sono proprio dei segni, dei resti, no? Che richiamano non solo le antiche città fenicee e romane, ma anche segni del passaggio di Paolo, per cui ci sono delle chiese proprio dedicate alla comunità che Paolo visita. Tra l'altro, proprio poco prima di arrivare a Gerusalemme, dove Paolo era stato fatto prigioniero anni prima, il testo, al capitolo 21 degli Atti degli Apostoli, ci dice che Paolo visita queste comunità nella sua discesa verso Gerusalemme, e le comunità di Tiro e Sidone anche lo invitano a non andare a Gerusalemme, perché sicuramente sarebbe stato arrestato, e lui li invita invece a confidare nella volontà di Dio. Quello però che colpisce è che Paolo è nelle mani di una persona che comunque è molto sensibile verso di lui, cioè probabilmente lo stesso centurione si rende conto che Paolo non è una persona pericolosa. Ora, quante sono le persone che vengono caricate sulla nave? Il testo degli Atti, proprio alla fine del capitolo 27, ce lo dice, sono 246 persone, quindi non sono pochi quelli che si imbarcano insieme a Paolo. 246 persone, insomma, è un buon 276 persone è un buon numero. E tra questi ci sono ovviamente i marinai, altri prigionieri, Paolo e alcuni discepoli che hanno il permesso di accompagnarlo, e probabilmente chi anche ha detto al carico-scarico delle merci. Tenete presente che un centurione quando doveva portare dei prigionieri con sé e aveva l'obiettivo di arrivare al cuore dell'impero, aveva il diritto di requisire le navi, cioè di utilizzare delle navi di commercio, come sembra il caso in questa navigazione, per caricare su di esse i propri prigionieri, in modo da portarli nel cuore dell'impero. Quindi quello che succede, o sembra succedere, in questa scena è proprio una cosa del genere, cioè il centurione della corte Augusta, la corte con questo titolo onorifico era una corte stanziata in Siria-Palestina, quindi ben si confà alla geografia che viene narrata da Luca, requisisce una nave utilizzata per portare delle merci e vi carica i suoi 276 persone, tra prigionieri, membri dell'equipaggio, Paolo amici e persone dedite al carico e allo scarico. E così inizia la grande traversata. Ora, il racconto del capitolo 27 sembra avere sullo sfondo del narratore, quindi sullo sfondo di chi racconta, in questo caso Luca, alcuni episodi che raccontano eventi simili. Pensiamo al libro di Giona. Giona, incaricato dal Signore, il profeta incaricato dal Signore di portare un invito alla conversione alla città di Ninive, salpa su una nave e cerca di fuggire in una direzione opposta per evitare questa missione che lui ritiene non solo difficile, ma rivolta a persone che non meritano l'attenzione di Dio, rivolta a persone pagane che non meritano l'attenzione di Dio. Mentre Giona fugge, il libro ci racconta che scoppia una grande tempesta e questa tempesta poi sarà il motivo per cui Giona verrà scaricato nel mare, inghiottito da una balena e restituito al porto di partenza. Anche qui è un tipo di narrazione dove il naufragio ha un valore fortemente simbolico e permette a Giona di riappropriarsi di una vocazione che lui stesso aveva rifiutato. Altri casi di traversate significative sono quelle del lago di Tiberiade. I discepoli, i dodici in questo caso, si erano già trovati più volte a dover attraversare il lago di Tiberiade. E questo è un tratto particolarmente evidenziato dal Vangelo di Marco. Chi legge il Vangelo di Marco per intero noterà che per ben tre volte nel cuore di questo Vangelo l'Evangelista sottolinea l'invito del Maestro a passare da una riva all'altra del lago. E tutte le volte che i discepoli cercano di celebrare questo passaggio, quindi di vivere la loro Pasqua, succede qualcosa. Una volta c'è una tempesta, un'altra volta non riescono a raggiungere l'altra riva del lago perché hanno il vento contrario, una terza volta invece sono rimproverati da Gesù perché si preoccupano del fatto che non hanno con sé il pane sulla barca e non si rendono conto che hanno con loro colui che è il pane della vita. Come mai tutte le volte nella traversata c'è una fatica significativa, forte? Perché la traversata è un codice simbolico per dire la grande trasformazione interiore che devono vivere i discepoli, la grande Pasqua che li attende e che celebreranno a Gerusalemme. Quindi, vedete, sia nel caso di Giona, sia nel caso delle traversate del lago di Tiberiade, notiamo uno stile narrativo che fa uso di questo elemento per sottolineare la grande trasformazione che i soggetti che sono sulla scena devono compiere. Nel caso ovviamente del viaggio verso Roma non è una trasformazione che concerne solo l'Apostolo Paolo, ma tutti i 276 passeggeri che compongono la flotta, si può dire, che si incammina verso Roma. Vediamo ora la seconda tappa di questo percorso, la seconda tappa di questo percorso che porta da Sidone fino a Lasea. Allora, leggiamo il testo, i versetti da 4 all'8. Salpati di là, navigammo al riparo di Cipro a motivo dei venti contrari. e attraversato il mare della Cilice e della Panfilia, giungemmo a Mira di Licia. Qui il centurione trovò una nave di Alessandria diretta in Italia e ci fece salire a bordo. Navigammo lentamente parecchi giorni, giungendo a fatica all'altezza di Cnido. Poi, siccome il vento non ci permetteva di approdare, prendemmo a navigare al riparo di Creta, dalle parti di Salmone. La costeggiammo a fatica e giungemmo in una località chiamata Buoni Porti, vicino alla quale si trova la città di Lasea. Allora, anche in questo caso il percorso procede, dopo i primi 140 chilometri ne vengono percorsi altri 127 e viene evidenziata una difficoltà da parte di coloro che hanno intrapreso la navigazione. Cioè, da Cesarea a Sidone siamo rimasti sulla costa dell'attuale Palestina e Libano. Ora, da Sidone andare all'Italia sarebbe stato logico attraversare il mare Mediterraneo, stando a sud di Cipro e di Creta, per poi andare direttamente, raggiungere direttamente l'attuale penisola italiana. Ora, il problema è il vento. Partendo da Sidone il vento è contrario, quindi la decisione di chi guida la nave è quello di rimanere vicini alla costa e percorrere la costa fino a costeggiare, ecco, l'attuale Libano, Siria, Turchia, in modo da rimanere sempre lungo la costa, tanto vero che raggiungono i porti di Mira e di Cnido, che sono entrambi nell'attuale Turchia. Quindi restano sulla costa, in modo che in qualsiasi situazione di emergenza dovesse insorgere, sono al riparo. Ci viene anche detto che a Mira il centurione ne approfitta per fare il trasbordo dei suoi della sua flotta, delle persone che portava con sé, che poi insieme all'equipaggio e tutto raggiungono le 276 persone. Fa il trasporto dove? Su una nave più grande. Da Mira passavano le navi che facevano da collegamento tra l'Asia e l'Italia, addirittura si dice da Alessandria d'Egitto a Roma, portando il grano. Erano alcune navi particolarmente forti che insieme alle merci portavano grandi quantità di grano nel cuore dell'impero. Quindi la nave precedente era una nave infatti che era diretta solo nell'Asia, nell'attuale Turchia, al nord dell'attuale Turchia. La nuova nave è una nave più grande, viene trasbordato tutto l'equipaggio e si riparte. L'obiettivo è sempre quello di raggiungere l'Italia, l'obiettivo non è quello di fermarsi da qualche parte, l'obiettivo è quello di raggiungere l'Italia, anche se la situazione si presenta un pochino difficile, cioè avendo il vento contrario non è tanto felice la navigazione. Il testo addirittura ci dice che per fare pochi chilometri da Mira a Cnido ci vogliono ben 15 giorni, il che dice la forza del vento contrario che la nave sta incontrando, rendendo tutto più difficile. La narrazione tra l'altro continua dicendo che poi, proprio per tale motivo, continuano a rimanere nei pressi della costa di Creta, cioè riescono a passare dall'isola di Cipro Rodi all'isola di Creta, però sempre rimanendo vicini alla costa, proprio perché il vento non è favorevole. L'ultimo punto dell'approdo è una città dell'isola di Creta che si chiama Lasea e lì cominciano a fermarsi cercando di decidere il da farsi. andiamo ancora avanti un pezzetto nella narrazione, vedendo la terza fase della navigazione, dove noi riusciamo a capire anche qual era il tempo preciso in cui si svolge questa navigazione, questo tentativo di arrivare a Roma. Leggiamo i versetti dal 9 al 12. Era trascorso molto tempo e la navigazione era ormai pericolosa, perché era già passata anche la festa dell'espiazione. Paolo perciò raccomandava loro: «Uomini, vedo che la navigazione sta per diventare pericolosa e molto dannosa, non solo per il carico e per la nave, ma anche per le nostre vite». Il centurione dava però ascolto al pilota e al capitano della nave, più che alle parole di Paolo. Dato che quel porto non era adatto a trascorrervi l'inverno, i più presero la decisione di salpare di là per giungere, se possibile, a svernare a Fenice, un porto di Creta esposto a libeccio e maestrale. Allora, qui noi abbiamo un'informazione importante. Ci viene detto che la navigazione, a motivo del vento contrario, si è dovuta prolungare più del dovuto e siamo già all'indomani della festa dell'espiazione. Era già passata la festa dell'espiazione. Calcolando che la festa dell'espiazione cade normalmente tra la fine settembre e l'inizio di ottobre, dobbiamo pensare che più o meno dovremmo essere nella prima decade di ottobre o verso la metà di ottobre. E per l'epoca la navigazione era considerata chiusa, cioè altamente sconsigliata, nel periodo che andava da novembre, dall'inizio di novembre, fino a marzo-aprile. Il mare era considerato chiuso, perché con il cielo aperto, con il cielo chiuso, coperto soprattutto di notte, senza la strumentazione di bordo era difficile orientarsi, ed era anche il periodo in cui gli uragani, le burrasche erano più pericolose. Allora, visto che il tempo è passato, visto che non hanno ancora fatto nemmeno metà di tutta la strada che li attende, Paolo prende la parola e invita a fermarsi, invita a non intraprendere la navigazione. Il problema è che la città dove loro si trovano fermi quando Paolo fa questo invito è la città di Lasea, e la città di Lasea è una città non adatta a svernare, cioè soprattutto perché bisognerebbe trovare una soluzione per 276 persone che costituiscono l'intero numero di chi è a bordo della nave. E allora, confrontandosi tra pilota, capitano e centurione, si decide di andare in una città vicina, cioè la città di Fenice, molto più grande, che poteva essere la città adatta per trascorrere i 4 mesi necessari prima di riprendere la navigazione. Quindi l'obiettivo è questo. L'equipaggio si è reso conto che bisogna fermarsi, che non è possibile proseguire la navigazione, però non possono trattenersi a Lasea, bisogna andare verso l'altra città, bisogna andare nella città di Fenice. E vedremo cosa succede subito dopo, appena la nave prende il largo per raggiungere la nuova città. Ma ora lasciamo un breve stacco musicale, in modo che se qualcuno ha la necessità di farlo può ripercorrere questi primi 12 versetti, in modo da vedere, restare, come dire, riuscire a seguire più da vicino quanto stiamo dicendo. Effettivamente il capitolo di oggi sarebbe ideale poterlo seguire con una mappa sullo sfondo. Se qualcuno di voi ha a disposizione una Bibbia tipo la Bibbia Via Verità e Vita, alla fine dell'edizione della Bibbia può trovare tutte le mappe dei viaggi di San Paolo, e allora può prendere la mappa legata al viaggio verso Roma e seguire passo passo l'andamento dell'Apostolo Paolo. Ma lasciamo un breve stacco musicale in modo che possiamo tutti rileggere questi primi 12 versetti del capitolo 27 degli Atti degli Apostoli. Bene, riprendiamo la nostra riflessione sul capitolo 27 degli Atti degli Apostoli. Stiamo ripercorrendo insieme la via, la tratta che Paolo percorre insieme a uno dei suoi discepoli, ma non sembra essere il solo. L'uso del noi sembra coinvolgere lo stesso Luca, lo stesso narratore, per raggiungere la capitale dell'impero, per raggiungere Roma. Quindi Paolo è prigioniero, parte da Cesarea come prigioniero e l'obiettivo è quello di portarlo a Roma. Abbiamo visto come le prime tappe di questo viaggio via mare, attraverso due diverse navi, una più piccola fino a Mira e poi una nave più grande che dovrebbe giungere fino a Roma, è un viaggio un pochino tormentato, con tutta una serie di difficoltà, a partire appunto dal vento che non soffia a favore. Questo ha costretto la nave a fermarsi per il momento in una località chiamata Buoni Porti, vicino alla quale si trovava la città di Lasea, e arrivati a quel punto abbiamo visto come Paolo invita a non proseguire. Il problema è che Buoni Porti e Lasea non sono adatti a svernare e quindi si decide di procedere e di cercare di raggiungere almeno una città vicina che si chiama Fenice, un porto vicino che si chiama Fenice, è un porto di Creta esposto, ci viene detto, al libeccio e maestrale, dove è possibile anche fermarsi e senza far correre alcun pericolo alle persone che sono a bordo e al carico. Vediamo però cosa succede. Sono i versetti da 13 a 15 dove iniziano quei grandi segni che io ho individuato come i sette segni che rendono difficili le traversate e con i quali ci dobbiamo misurare ogni volta che noi dobbiamo fare Pasqua, cioè dobbiamo vivere un passaggio nella nostra vita. Cominciamo con il primo segno. Il primo segno contrario è quello del vento. I versetti dal 13 al 15. Appena cominciò a soffiare un leggero scirocco, ritenendo di poter realizzare il progetto, levarono le ancore e si misero a costeggiare Creta da vicino. Ma non molto tempo dopo si scatenò dall'isola un vento di uragano, detto Euroaquilone. La nave fu travolta e non riusciva a resistere al vento. Abbandonati in sua balia, andavamo alla deriva. Ecco, da un punto di vista così geografico e logistico, questo gruppo cerca di raggiungere la città vicina, dove era possibile svernare. Restano sulla costa in modo da non allontanarsi nel mare aperto, però si trovano con un vento contrario molto forte. È un vento considerato un vento d'uragano, l'Euroaquilone. Il testo dice che spirava dall'isola, quindi spirando dall'isola contro la nave, porta la nave al largo e nel giro di poco tempo questa nave si trova in alto mare, senza più la possibilità di tornare a riva. E la situazione è davvero molto molto delicata. Il testo dice, dirà poco più avanti, che per 14 giorni la nave sarà sbattuta dal vento e dalle onde, senza sapere e senza vedere dove stava andando. Ecco la prima sfida delle traversate. La prima sfida della traversata è quella del vento forte. Cosa rappresenta il vento forte? Può rappresentare tante cose da un punto di vista simbolico. Sappiamo che è la forza degli elementi ostili. Lo ritroviamo quando i discepoli vogliono attraversare il lago di Tiberiade. Può essere l'elemento che impedisce una missione importante. Può essere semplicemente, come ovviamente in questo caso, anche un ostacolo oggettivo, ma il vento forte nel mare indica l'essere esposti al caos primordiale, con tutto quello che questo implica. Ora, nel caso della Pasqua a cui ci stiamo avvicinando, il vento forte potrebbe essere identificato con l'ostilità di tutte le autorità religiose. Gli scribi, i farisei, i capi dei sacerdoti oramai si sono convinti che Gesù debba essere fatto fuori e non c'è nulla che tenga. Tutto viene deciso per raggiungere questo obiettivo. Il vento ormai spira forte e, come succede per la barca di Paolo, si è un po' abbandonati in sua balia, avendo l'impressione di andare alla deriva. Dopo il vento viene subito precisato un secondo aspetto nei versetti 16-19. Mentre passavamo sotto un isolotto chiamato Cauda, a fatica mantenemmo il controllo della scialuppa. La tirarono a bordo e adoperarono gli attrezzi per tenere insieme con funi lo scafo della nave. Quindi, nel timore di finire incagliati nella sirte, calarono la zavorra e andavano così alla deriva. Eravamo sbattuti violentemente dalla tempesta e il giorno seguente cominciarono a gettare a mare il carico. Il terzo giorno con le proprie mani buttarono via l'attrezzatura della nave. Ecco, la situazione si fa sempre più complicata, vedete che il racconto passa dalla prima persona plurale alla terza persona plurale. Da un lato c'è chi narra, dall'altro vengono individuate le azioni dei marinai, dell'equipaggio. E l'azione dell'equipaggio è duplice. La prima è quella di tirare sulla scialuppa, cioè si rendono conto che oramai non c'è più via di scampo. Finché la scialuppa è giù, si ha la fiducia di non essere poi così lontani dalla costa, per cui da un momento all'altro si potrebbe anche approfittare di un momento di calma per mettere in salvo almeno le persone. Dall'altra parte, oltre a tirar su la scialuppa perché oramai non c'è più speranza di raggiungere la costa, cominciano a alleggerire la nave in modo da poterla gestire meglio. E allora da un lato calano la zavorra in modo da tenerla più fissa e dall'altro invece cominciano a gettare a mare il carico e insieme al carico anche una sorta di attrezzatura, cioè materiali che non servono all'interno della nave. E qui cominciano a perdere il tesoro che la nave sta portando, cioè il grano. Insieme al grano cominciano a perdere anche alcune strumentazioni che certo non sono considerate indispensabili, però se erano sulla nave qualcosa a qualcosa dovevano pur servire. Ecco il secondo elemento, la seconda necessità che caratterizza la traversata. La prima è la prova del vento contrario, la seconda è la prova dell'alleggerirsi, della spogliazione, cioè ogni passaggio, ogni cammino che conduce alla Pasqua è sempre un cammino di spogliazione. Occorre alleggerirsi di tutto ciò che è superfluo. È il momento in cui ci si rende conto che ciò che serve nell'esistenza sono davvero poche cose e quelle sono quelle davvero necessarie. È un po' l'esperienza tipica dei momenti di dolore, di sofferenza. Quando ciascuno di noi vive un'esperienza di dolore, di sofferenza, cosa prova se non la riscoperta di quei valori che davvero contano e la superficialità di altri elementi per cui a volte magari ci accapigliamo o discutiamo perdendo tempo che potrebbe essere prezioso se noi avessimo davvero davanti a noi i valori che contano. Dopodiché arriviamo al terzo elemento che caratterizza questa traversata, dopo quello del vento e della spogliazione sostanzialmente, cioè dall'aver alleggerito la nave, ed è l'elemento della notte oscura. È il versetto 20, da vari giorni non comparivano più né sole né stelle e continuava una tempesta violenta. Ogni speranza di salvarci era ormai perduta. Siamo al versetto 20 di questo capitolo e l'autore ci dice che arriva il punto nella traversata in cui l'uomo si rende conto che le sue forze non servono più, che le sue forze non bastano più. Non ci sono più punti di riferimento perché né sole né stelle sono visibili e senza le luci è impossibile decidere in quel tempo la rotta da prendere, non c'erano sicuramente i satelliti che ci sono oggi che permettono di orientarsi anche durante un mare in tempesta e soprattutto la tempesta violenta continuava. Tutti hanno perso la speranza di salvarsi. E questo elemento che porta fino in fondo, fino all'abisso della propria esperienza, in genere per gli uomini di Dio è il momento in cui Dio può intervenire. Quando l'uomo sperimenta che a lui nulla è più possibile, Dio interviene come colui a cui nulla è impossibile. E qui la mente va sicuramente all'esperienza di Abramo. L'abbiamo ripercorsa durante il tempo della Quaresima che abbiamo vissuto, questo grande uomo di Dio che viene chiamato a 75 anni, ma che deve attendere fino a 100 anni per vedere la promessa di quella discendenza da lui tanto agognata realizzarsi nel figlio Isacco. Perché era necessario attendere 25 anni e non subito? Perché Dio può agire solo là dove l'uomo è totalmente svuotato di sé. Ed è ciò anche che contempleremo nel Venerdì Santo. Cosa contempliamo sulla croce? Un uomo, l'uomo Dio, il cui io è totalmente svuotato, e in questo svuotamento totalmente affidato nelle mani del Padre, che lui invoca fino all'ultimo istante. Se volete anche un po' il dinamismo dell'inno che troviamo nella lettera di Paolo ai Filippesi, dove si parla di questo svuotamento del Signore, di questa umiliazione del Signore, ma proprio sotto l'emblema dello svuotamento. Quindi vedete, nel momento in cui viene descritto il clou, la tempesta, il forte naufragio a cui la nave è esposta, ci sono questi segni, questi sette segni che identificano i punti con cui occorre misurarsi quando vogliamo celebrare la Pasqua. Il primo momento è quello del vento contrario, il secondo quello della spogliazione, dell'aver alleggerito la nave, il terzo è quello della notte, misurarsi con la notte oscura. Lasciamo ancora un breve stacco musicale in modo che possiate rileggere questi versetti che descrivono l'esperienza della tempesta, del naufragio, dal 13 al 20, per poi continuare con gli altri quattro segni, in modo da continuare la nostra riflessione su questo bel testo di Atti 27. Riprendiamo la nostra lettura del capitolo 27 degli Atti degli Apostoli, questo viaggio che sta portando Paolo da Cesarea a Roma, un viaggio via mare, che è segnato da un'esperienza poco piacevole, che è l'esperienza della tempesta seguita poi dal naufragio. E ci siamo detti che il narratore che si gioca in prima persona, nel senso che utilizza proprio la prima persona plurale nella narrazione, che sembra essere presente, sembra essere a bordo della nave, Il narratore sembra descrivere l'esperienza della tempesta, del naufragio, evidenziando sette elementi che sono elementi caratterizzanti questa traversata, questo passaggio, e che noi stiamo prendendo come elementi simbolici che caratterizzano anche il passaggio della Pasqua. La Pasqua significa appunto passaggio, e questo capitolo degli Atti degli Apostoli sembra mettere davanti a noi questi sette aspetti che caratterizzano davvero la celebrazione pasquale. Abbiamo visto i primi tre, cioè il vento contrario, la spogliazione e il momento della notte oscura, dove l'uomo è messo con le spalle al muro, si trova nell'impossibilità di fare qualsiasi cosa. Ed ora vediamo gli altri quattro, dove invece si gioca di più sull'aspetto positivo, cioè in questo contesto dove l'uomo è provato dal vento contrario, dalla spogliazione necessaria e dalla notte oscura, quali sono gli altri quattro elementi che caratterizzano l'esperienza della Pasqua? Il primo lo vediamo subito nei versetti da 21 a 25, dove ci viene segnalata l'esperienza che fanno i presenti con Paolo. Da molto tempo non si mangiava. Paolo allora, alzatosi in mezzo a loro, disse: «Uomini, avreste dovuto dar retta a me a non salpare da Creta. Avremmo evitato questo pericolo e questo danno. Ma ora vi invito a farvi coraggio, perché non ci sarà alcuna perdita di vite umane in mezzo a voi, ma solo della nave. Mi si è presentato infatti questa notte un angelo di quel Dio al quale io appartengo e che servo, e mi ha detto: non temere, Paolo, tu devi comparire davanti a Cesare, ed ecco, Dio ha voluto conservarti tutti i tuoi compagni di navigazione. Perciò, uomini, non perdetevi di coraggio, perché ho fiducia in Dio che avverrà come mi è stato detto. Dovremo però andare a finire su qualche isola». Allora, qui interviene la visione di un angelo che fa di Paolo un messaggero di salvezza per tutte le 276 persone che ci sono a bordo della nave. Vedete, Paolo non è che tace gli elementi negativi di quella flotta, cioè dice chiaramente: abbiamo fatto un'asinata a partire, e dice chiaramente che la nave andrà perduta, che non sarà possibile conservare la nave si sfascerà per la tempesta e per il naufragio, però assicura che nessuna vita umana andrà persa. Ed è molto bella la descrizione che lui dà del Signore. Dice: il Signore al quale io appartengo e che servo. Questa appartenenza di Paolo a Cristo Signore è l'elemento chiave che permette di compiere le traversate, non solo per sé, ma anche per tutte le persone che ci circondano. Quando noi abbiamo una forte appartenenza di Cristo, state pur certi che riusciremo a compiere le traversate più difficili della vita, e quante la vita ce ne presenta, e riusciremo a percorrerle non solo da soli, ma anche a tutti coloro che in qualche modo, in quel preciso momento, sono legati a noi. Non è la prima volta che Paolo vive questa esperienza. Pensiamo all'esperienza vissuta sulla via di Damasco, anche lì l'apparizione del Signore. Pensiamo all'esperienza a Gerusalemme, quando Paolo viene arrestato e rischia di essere linciato dalla folla nel Tempio, mentre è in carcere e ha una visione nella notte dove gli appare il Signore e gli dice: non temere, perché come hai testimoniato a me in Gerusalemme dovrai rendermi testimonianza a Roma. Ed ora l'angelo del Signore gli conferma proprio questa cosa. Tre luoghi diversi, Damasco, Gerusalemme, ora in mezzo a un mare in tempesta, che ribadiscono l'orizzonte che è raggiunto dalla misericordia divina, Però al cuore c'è proprio questo elemento, l'appartenenza e il servizio di Dio, il sentirsi parte di questa come dire, di sentirsi parte di questo suo disegno di salvezza che passa attraverso di noi e può raggiungere molta gente. Andiamo quindi avanti nella narrazione, vedendo quindi dopo il quarto segno, il quinto segno che è come un invito a farsi carico dell'altro, quindi dopo il vento, la spogliazione, la notte oscura, ecco la presenza del Signore, l'appartenenza al Signore. Ed ora anche il senso di appartenenza con chi ci sta attorno. I versetti, leggiamo i versetti dal 27 al 32. Come giunse la quattordicesima notte da quando andavamo alla deriva nell'Adriatico, e questo è proprio il versetto che ci dice che per 14 giorni e notti sono sbattuti dalle onde, dal vento. Verso mezzanotte i marinai ebbero l'impressione che una qualche terra si avvicinava. Calato lo scandaglio, misurarono 20 braccia. Dopo un breve intervallo, scandagliando di nuovo, misurarono 15 braccia. Nel timore di finire contro gli scogli, gettarono da poppa quattro ancore, aspettando con ansia che spuntasse il giorno. Ma poiché i marinai cercavano di fuggire dalla nave e stavano calando la scialuppa in mare col pretesto di gettare le ancore da prua, Paolo disse al centurione e ai soldati: «Se costoro non rimangono sulla nave, voi non potrete mettervi in salvo». Allora i soldati tagliarono le gomene dalla scialuppa e le lasciarono cadere in mare. Allora, anche questo episodio è molto, molto interessante perché dopo la visione di Paolo ci si rende conto che la terra non è lontana, proprio perché il fondale marino si abbassa, la distanza misurata si abbassa sempre di più, però scoppia un terrore all'interno della flotta. Allora, il terrore è quello di andare a finire contro qualche scoglio. Del resto, nessuno sulla nave, a motivo della tempesta, sa dove sono finiti, cioè essere sballottati qua e là, in che punto sono finiti, se sono ancora nelle zone di Creta, se sono da qualche altra parte. Quindi è giustificato il timore dello scoglio. E i marinai sembrano volere approfittare della situazione per far calare le scialuppe che avevano ritirato a bordo e fuggire, lasciando andare la nave alla deriva. E qui Paolo interviene e dice chiaramente che bisogna farsi carico gli uni gli altri. Se i marinai fuggono, nessuno troverà scampo, perché chi potrà gestire la nave se i marinai fuggono nella scialuppa? Però è interessante il modo con cui Paolo lo dice. Lui dice, se costoro non rimangono sulla nave, voi non potrete mettervi in salvo. Cioè, Paolo è certo che la visione che lui ha avuto per sé e sicuramente si realizzerà, la sua vita è salva, però dice al centurione che o ci si salva tutti insieme oppure rischia di non salvarsi nessuno. Quindi non solo l'appartenenza a Dio, che è stata sottolineata prima, ma il quinto segno è l'appartenenza vicendevole. C'è una responsabilità vicendevole che chiede di intervenire e il centurione, che sembra essere particolarmente collaborativo fin dall'inizio con l'Apostolo Paolo, fa tagliare subito le funi e le scialuppe vengono lasciate andare e nessuno può più recuperarle, così tutti sono obbligati a restare sulla nave. Questo gesto dice l'importanza dell'essere comunità, dell'essere chiesa. Non si può celebrare la Pasqua con la separazione nel cuore, con la divisione nel cuore. Le navigazioni, le traversate vanno affrontate insieme, dando la possibilità proprio fino all'ultimo a ciascuno di dare il suo contributo in quella che è la traversata. E ora ecco, e siamo arrivati al quinto elemento, ne mancano ancora due. Ecco il sesto elemento di questa traversata, vedete che dopo i tre elementi negativi, il vento, la spogliazione e la notte oscura, la tempesta oscura, abbiamo visto due elementi positivi, cioè la visione dell'angelo e il fatto di avvicinarsi a terra insieme. Arriviamo al sesto elemento. Fino allo spuntare del giorno Paolo esortava tutti a prendere cibo dicendo: oggi è il 14° giorno che passate digiuni nell'attesa senza mangiare nulla. Vi invito pertanto a prendere cibo, è necessario per la vostra salvezza, neanche un capello del vostro capo andrà perduto. Detto questo prese un pane, rese grazie a Dio davanti a tutti, lo spezzò e cominciò a mangiare. Tutti si fecero coraggio e anch'essi presero cibo. Sulla nave eravamo complessivamente 276 persone. Quando si furono rifocillati, alleggerirono la nave gettando il frumento in mare. Interessante, è una celebrazione dell'Eucaristia. Sembra essere proprio una fractio panis nel cuore del momento delicato, del momento della tempesta, dopo tra l'altro un lungo periodo di digiuno che non sembra essere legato al giorno dell'espiazione, ma piuttosto al timore della tempesta che ha sbattuto l'intero equipaggio e l'intera nave da una parte all'altra, e questa fratio panis coinvolge tutte le 276 persone a bordo. È una Eucaristia celebrata al di là dell'appartenenza o del credo religioso. Tutti sono invitati a prendere cibo e mentre prendono cibo Paolo riconferma il suo insegnamento di fede, perché dice: vi invito a prendere cibo, è necessario per la vostra salvezza, neanche un capello del vostro capo andrà perduto. Collega in questo modo nuovamente alla visione che lui ha ricevuto. Si parla di salvezza, si parla di fiducia in quel Dio che ha invitato a confidare nella vita, e si parla di frazione del pane. Sono tutti elementi che caratterizzano in modo forte questa parte del racconto. Siamo al sesto segno, quindi vedete tre segni negativi: il vento forte, la spogliazione, la notte, e tre segni positivi: la visione, l'essere insieme, cioè il non perdere nessuno, e il terzo elemento è il cibo e lo spezzare del pane, la fractio panis, che dà a tutti coraggio e forza. Ora, questi elementi, sia quelli negativi sia quelli positivi, caratterizzano ogni traversata. Noi lo contempleremo, il Giovedì Santo è il giorno proprio della fractio panis, quindi è il momento in cui si vive questa esperienza. Ora, tra gli elementi positivi e gli elementi negativi, qual è il settimo segno? Il settimo segno si trova, come dire, a metà tra i primi tre e gli ultimi tre. E vediamo come continua il testo. Tra l'altro il versetto 38 dice che alla fine decidono proprio di alleggerire totalmente la nave, per cui tutto il grano viene buttato a mare proprio per cercare di gestire meglio l'imbarcazione. Ultimo brano è il brano dei versetti da 39 a 44. Quando si fece giorno non riuscivano a riconoscere la terra. Notarono però un'insenatura con una spiaggia e decisero, se possibile, di spingervi la nave. Levarono le ancore e lasciarono andare in mare. Al tempo stesso allentarono le corde dei timoni, spiegarono la vela maestra e, spinti dal vento, si mossero verso la spiaggia. Ma incapparono in una secca e la nave si intagliò. Mentre la prua, arenata, rimaneva immobile, la poppa si sfasciava sotto la violenza delle onde. I soldati presero la decisione di uccidere i prigionieri per evitare che qualcuno fuggisse a nuoto, ma il centurione, volendo salvare Paolo, impedì loro di attuare questo proposito. Diede ordine che si gettassero per primi quelli che sapevano nuotare e raggiungessero terra, poi gli altri, chi su tavole, chi su altri rottami della nave, e così tutti poterono mettersi in salvo a terra. Ecco la conclusione di questo lungo percorso, una conclusione che si muove anche qua tra la morte e la vita, ma che termina con la vittoria della vita e con l'arrivo da parte di tutte le 276 persone a terra. Come ci racconta bene il narratore, i marinai gestiscono la nave nell'avvicinarsi alla spiaggia, però ovviamente in mezzo a una tempesta non è possibile riuscire a gestire tutto e la nave si incaglia con la prua. Le onde sbattono il retro della nave che rischia di sfasciarsi e qui c'è una reazione impulsiva dei marinai. I soldati che sono con il centurione Giulio hanno la responsabilità dei prigionieri e sanno che questa responsabilità può costare loro cara. La vita si paga con la vita, quindi se loro perdono uno di questi prigionieri rischiano di essere condannati a morte. Da qui la decisione dei marinai, uccidere i prigionieri, in modo che loro, almeno loro, hanno la vita scampata. E questa volta a intervenire non è Paolo, ma il centurione, che si fida della promessa che Paolo ha fatto, cerca di garantire Paolo per tutto il bene comunque che ha fatto, riuscendo in una situazione difficilissima a tenere compatto il gruppo che è su quella nave, e dà ordine di lanciarsi tutti verso la spiaggia. Chi riesce a nuotare gli invita ad andare subito, gli altri al momento in cui si sfascia la nave utilizzando assi o rottami della nave stessa. Quindi la nave va perduta, chi sa nuotare raggiunge subito la riva, gli altri raggiungono la riva dopo. Teniamo presente, non sanno ancora dove sono arrivati. Noi sapremo dalla narrazione che si tratta dell'isola di Malta, però non sanno ancora che sono approdati lì. La cosa importante è che tutti e 276 persone raggiungono l'isola, nessuno fugge e tutti hanno la vita salva. Quindi dalla minaccia di morte si passa alla vita, una vita che vedremo la prossima volta all'interno dell'isola di Malta, si manifesterà in tutta la sua forza. E tra l'altro nessuno dei prigionieri fuggirà. Qualcosa di simile era successo anche quando Paolo era stato fatto prigioniero a Filippi e c'era stato il terremoto durante la notte che aveva aperto tutte le porte della prigione. In quel caso il centurione era pronto a uccidersi proprio perché aveva paura che sicuramente qualcuno era fuggito, e invece Paolo lo invita non solo a non uccidersi, ma lo coinvolge nel mistero pasquale attraverso la frazione del pane e il battesimo. E qui avviene qualche cosa di molto molto simile. La traversata è compiuta, è una traversata che ha avuto degli elementi contro, il vento, la spogliazione, l'oscurità, ma ha avuto anche degli elementi forti a favore, che hanno detto l'irrompere dell'azione di Dio, quindi la visione, la capacità di fare il percorso insieme e la frazione del pane che ha dato coraggio a tutti. E tutto questo ha permesso di vincere la paura della morte per fare trionfare la vita. Ecco, penso che questo capitolo potrebbe davvero essere una bella chiave di lettura per vivere questa grande settimana e vivere soprattutto il grande momento che ripercorreremo nella memoria il giovedì, il venerdì e il sabato santo. Anche Gesù si deve confrontare con, abbiamo visto prima, con il vento contrario, con la notte oscura, con l'umiliazione della nudità e della spogliazione. Però anche Gesù è immerso nella presenza del Padre, nell'essere custode di tutta la comunità, volendo che nessuno dei suoi figli si perda, e nello stesso tempo anche Gesù è immerso nel vivere su di sé il gesto della fractio panis. Lui stesso è quel pane di vita che viene spezzato per la salvezza di molti. E proprio in questo modo la morte verrà inghiottita e verrà vinta, come avremo modo di vedere a Pasqua. Ecco, penso che questo capitolo, quindi che così ad un primo impatto sembra essere fuori luogo in una settimana come quella che noi stiamo vivendo, però può offrire davvero una bella chiave di lettura. E siccome il mio tempo, il tempo che ho a disposizione, volge al termine, vorrei terminare, come dicevo all'inizio, con un cenno sul brano che la liturgia ci offre oggi. Ogni lunedì santo la liturgia ci offre il brano della unzione di Betania. Unzione di Betania che costituisce, pensate, nella liturgia ambrosiana è proprio il grande portale di ingresso nella settimana autentica. Nella liturgia romana è posto e collocato dopo la Domenica delle Palme nel giorno di oggi. Bene, l'immagine della cena di Betania con quel gesto di Maria, la sorella di Lazzaro, penso possa essere anch'esso una sorta di chiave di lettura che ci permette di vivere bene questa settimana. Cioè, le persone presenti sono persone che in modo diverso ci indicano come poter vivere la Settimana Santa. Ci viene detto che sono presenti Marta, Lazzaro e Maria. Ognuno di questi vive la Pasqua, anticipa la Pasqua in modo diverso. Marta ci viene detto servendo. Il testo dice: sei giorni prima della Pasqua Gesù andò a Betania, dove si trovava Lazzaro che egli aveva risuscitato dei morti. Qui fecero per lui una cena, Marta serviva. Ecco, il primo modo di celebrare la Pasqua è quello di celebrarla nel servizio, capire, vivere la dimensione del servizio. In fondo quel Signore che muore sulla croce è colui che è servo sulla croce, servo di tutta l'umanità, colui che si pone all'ultimo posto, perché tutti noi possiamo riscoprire la dignità di essere figli di Dio. Dopo Marta c'è Lazzaro. Lazzaro viene detto che era uno dei commensali. Questo essere uno dei commensali non significa che Lazzaro non faceva niente mentre Marta si dava da fare, assolutamente no. È un altro modo di vivere la Pasqua. Vivere la Pasqua significa essere commensali di Gesù, e essere commensali di Gesù non è una cosa semplice, tutt'altro, è un qualcosa di molto scomodo, tanto vero che subito dopo viene detto a margine del brano che la folla accorre non solo per Gesù ma anche per Lazzaro, che egli aveva risuscitato dei morti. E i capi dei sacerdoti decisero allora di uccidere anche Lazzaro. Vedete? Essere commensali di Gesù significa immergersi nel suo stesso mistero di passione, morte e risurrezione. Lazzaro quindi ci introduce nella verità dell'Eucarestia, Marta nella verità della vita, che è quella del servizio. E arriviamo alla terza modalità di prepararsi alla Pasqua, che è quella di Maria di Betania. Maria prese 300 grammi di profumo di puro nardo prezioso e ne cosparsi i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli e tutta la casa si riempì dell'aroma di quel profumo. Il gesto di Maria di Betania è il gesto di chi si dona completamente, senza guardare in faccia a nessuno, senza preoccuparsi di quello che possono pensare o dire di lei. Lei è totalmente coinvolta. Sappiamo che nell'epoca era una cosa disdicevole presentarsi per una donna con i capelli sciolti in un luogo pubblico e soprattutto trasformare questi capelli in una sorta di asciugamano, entrando in contatto con i piedi di un uomo. Tuttavia il coinvolgimento è tale che sembra esserci quasi tra Gesù e Maria di Betania una perfetta sintonia, dove l'uno è il prolungamento dell'altro, perché c'è un unico mistero che li avvolge ed è il mistero di una vita che si dona fino a sprecarsi. Quel profumo altro non è che il dono della vita che Cristo sta vivendo, un dono della vita che sembra essere uno spreco totale, ma che riempirà di profumo il mondo. Quindi vedete anche qui, come nel caso del brano che abbiamo meditato insieme, anche qui tre elementi positivi rappresentati da Marta nel servizio, Lazzaro nell'essere commensale e Maria di Betania nel gesto del profumo versato, che sono però accostati a tre elementi negativi, perché il passaggio avviene sempre un pochino tra queste due dimensioni, positive e negative. Tre elementi negativi che sono rappresentati, il primo dai capi dei sacerdoti, che hanno deciso di mettere a morte di Gesù e hanno dato ordine a tutti coloro che lo cercano di denunciarlo. Il secondo elemento negativo è palesemente Giuda, uno dei dodici, mentre Maria di Betania dona senza guardare in faccia a nessuno, Giuda calcola, prezza con la scusa dei poveri, viene denunciato tra l'altro come un ladro, come uno che invece di donare prende quello che appartiene alla comunità, all'essere che rompe quindi la comunione all'interno del gruppo dei discepoli, e poi la folla, una folla che sembra piuttosto essere una folla di curiosi, più che non una folla di persone che si lasciano mettere in discussione da tutto quello che si sta verificando. Quindi, ancora una volta, accanto ai tre elementi positivi troviamo i tre elementi negativi, che nel brano di Paolo erano il vento, la spogliazione e l'oscurità. Ora Gesù passa in mezzo all'uno agli altri, trasformando questo rischio di morte in un luogo di vita e quel gesto di dono in un gesto di grande prefigurazione di ciò che lo attende, grande prefigurazione della risurrezione. E così da quel gesto che avviene in una casa di una donna che lava con il profumo i piedi al Signore, siamo introdotti in quello che Dio stesso farà per l'uomo, cioè Gesù prenderà proprio questo gesto per compierlo sui discepoli, rappresentanti di tutti noi. La lavanda dei piedi non sarà solo la lavanda di Maria di Betania su Gesù, ma diventerà la lavanda di Gesù sui piedi di tutti noi. E allora lì davvero viene anticipato in un altro gesto fortemente eucaristico il dono di Cristo in croce. E qui, cari ascoltatori, termino questa nostra conversazione, augurando a tutti voi di cuore una settimana santa vissuta in profondità, ovviamente vissuta anche in compagnia di Maria, che ci aiuta ad essere attenti alla ricchezza della parola di Dio di questi giorni e a far sì che la parola possa continuare a toccare e a raggiungere la nostra vita. Quindi di cuore a tutti voi la benedizione del Signore e l'augurio di una santa e luminosa Pasqua. Buona Pasqua a tutti. Noi ci risentiamo nel mese di maggio. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.